fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarvi. Bentornati o benvenuti in Risto Radio Convento insieme a Master Nick, la web radio del convento di Donato del Garda. C'è un detto che dice che nella botte piccola c'è il vino buono, e abbiamo qui con noi una ragazzina minuta minuta, ma che ha un'energia dentro, che ha una carica veramente, una molla che non potete fermare, e la andiamo a conoscere. Abbiamo anche la possibilità di vederla sulle nostre webcam insieme ovviamente alle sue Pink Ladies, come si voleva nel più conosciuto Grease, e la conosciamo perché sta festeggiando un evento importante. Allora, benvenuta. Ciao a tutti. Come te chiamas? Gloria. Oh, senti quanto entusiasmo. Vai, Gloria. E nella botte piccola c'è vino buono, Vedi, vedi, bello. Chi è che te l'ha detto, quel detto lì? Lo dicono tutti, bravissima. Bravo, mi piace quando si appropria di frasi che uno ha già detto 30 secondi prima, bravo, come fossero sue. Grande, bravo, Gloria. Bravo, bravo. Grande, perfetto. Allora, Gloria, da dove vieni? Io da Cremona. Anzi, dillo bene, che sennò si arrabbiano. Lei si arrabbia se non lo dici bene. Grumello Cremonese. Grumello Cremonese, che non è? Che non è Grumello del Monte, esatto, perché sennò lei ti denuncia per errore di paese. Carampane, che mi piace carampane, un termine desueto. Carampane. Allora, vogliamo fare un saluto alle ragazze qua fuori. Ciao, Jessica mi ha detto che si chiama Jessica, vabbè. Ciao Jessica. Ha detto che si è fatto il labiale, voleva che la dicesse. Allora, Gloria, però torniamo sulla tua festa, torniamo sulla tua serata. Dici cosa ti porta qui da noi e cosa stai festeggiando. Guarda, sto festeggiando il mio Dio annubilato. Uela, che bello. E poi dovete sapere che Gloria è uno, diciamo così, dei ormai rari esemplari, perché si sta sempre più allontanando. No, nel senso, si sta sempre più allontanando la data tra nubilato, festa insomma, e matrimonio, mentre Gloria si sposa sabato prossimo, esatto, quindi tra una 22, settimana, sì. Il 22 giugno che lei ha annunciato il matrimonio. No, dovete sapere che ad esempio tantissimi si sposano il 7 di settembre, esatto, e sono a festeggiare stasera, quindi con largo anticipo. Oh, no, è vero, tanti, non so perché sta passando, cioè un tempo negli anni 90 il nubilato celibato era il giorno prima, esatto, poi piano piano si è dilatato, adesso addirittura 2 mesi, e ti dico ma la verità, così, no, sei veramente uno dei rari esemplari che viene una settimana prima, ma perché così, ce ne sono pochi, e allora è il momento giusto per capire a che punto siamo. Guarda, siamo al punto che va bene, è già tutto pronto, quindi manca il 22 giugno. Manca arrivare all'altare. Il 22 ho detto sì. No, hai detto 21. No, ho detto 22. Hai detto 22? Sì, ah, ok, bene, 22. Bene. No, non volevo che mi sbagliavi la data, mi presentavi là da sola. Ma ammazzo quello là dopo, Madonna, addirittura. Come si chiama? Mauro Alenghi. Tutto, ci dice tutto. E stasera? Vai a fare l'addio al celibato. Ah, e sai dove? Monte del Grappa. Bassano del Grappa. Chiediamo scusa a tutte le maestre di geografia all'ascolto. Scusate, che stiamo offendendo. È da un po' che non vado a scuola, Quindi dobbiamo ripassare un po', dobbiamo rivederci. Allora, ma sai cosa sta facendo? No. No, non so niente, non l'ho proprio tutto... sentito. Non so è proprio tutto non top so secret. Cosa fa, non so dov'è, non so. No, dov'è, l'hai appena detto. Sì, lo so. Ah, ok. Non so cosa sta facendo. Ah, ok. Tutto domani. Vi racconterete. Forse. Se mi scrive, sì. Allora, no, aspetta, che abbiamo anche parlato. È lui? Ah, no, non è lui. No, pensavo fosse Mauro. Un bacio anche a te. Sì, dopo. Come dopo? Però fatelo appartate, non voglio rivedere sto spettacolo. Cioè, mi ha rovinato l'infanzia. Ah! Un applauso al nostro autista di stasera, a Bacon. È lui? Nostro autista di Grumello Cremonese, che ci ha portato fino qua e ci sta sopportando. Ma è il ragazzo con la camicia bianca? Quel ragazzo là, sì. Grande, grande. Nell'angolo. Grazie, Beco! Grazie! Mi piace questa no, non era per te. Non era per te. No, dopo, era per lui. Dopo, spostati, dopo, c'è il rovina visuale. Era per lui, quello là. Vedi, c'è un po' rimasto male. Mi si è svenuto quando ho capito che non era per lui, ha avuto un colpo. No, dicevo, abbiamo crollato psicologicamente e fisicamente. proprio andato proprio, perché è collassato, no, cioè no, è proprio coricato, piegato in due. Ma no, che... Gloria, che effetto fai alle persone? Non lo so. Ma no, me le sciogli, me le fai meglio così, c'è un meglio si scolla. No, no, uno è meno addirittura, è tipo la selezione naturale, Gloria, beh, è tipo Darwin lei, sì, e piano piano li elimina tutti. Sì, sì, sì. No, dicevamo in apertura delle Pink Lady, così ribattezzate, perché chiaramente, come vedete dalle webcam, tutte in rosa, divisa d'ordinanza, il Bride Team, Bride Security. Cosa puoi fare? Ce le vuoi presentare? Guarda, raccontaci un po'. Volentieri. Lei volentieri. Mara, una delle mie testimoni. Ok. Lei è Francesca. Sindaco di Grumello del Monte. No, tra ah, scusa, no, pensavo. Ah, pensavo fosse sindaco di Grumello del Monte. La Paola. La Paola. L'altra testimone, la Deborah. La Ruth, la mia fiduciosa parrucchiera. Madonna, io ho detto amica, per un momento ho pensato alla mia figliola. La mia amica anche. La Rebecca, mia compagna delle elementari e medie. C'è. E Jessica. Che sta dormendo. E sua sorella. Ah, ok, sua sorella, no, che ha avuto un attimo di assopimento. Ma secondo me Jessica è rimasta influenzata dal ragazzo. Sì, perché sì, l'ha visto sul divano e no, diciamo che ha subito. La faccio svegliare. Ah, dici che si è riattiva. Si è riattiva. No, ha subito un attimo il sonno del ragazzo, se l'è un po'. Ok, ok. Allora, quindi, a parte le due testimoni, cioè tutte amiche, colleghe, amiche, a parte amiche, la parrocchiera di fiducia. Amiche, lei, testimone e collega, ma è una mia grande amica. Nonostante quindi prima sia collega, non è una grande amica. Prima collega, poi testimone. No, prima amica, poi amica. E testimone. E testimone, amica. Testimone, amica, collega. Bene, così abbiamo messo anche in ordine, in ordine, in fila. Allora, intanto ti sei divertita stasera? Molto, è stata all'altezza della tua energia? Molto, cioè io questa cosa quando la facevo da tantissimi anni. Ma va? Sì. È sempre io, una che tipo tutti i sabati è lì sì, che salta. Io sembro una, scusate il termine, drogata, ma non sono drogata. No, cioè, lei sono è così, sono sempre stata così e sono è bello, così. È bello, no, veramente esplosiva. Non le manette, non è vero. Io sto, cioè se mi portano fuori ci vado. Sì, sì. E sarò sempre così. No, no, veramente, è una ragazza esplosiva. Basta la fiducia in una coppia. Quando c'è la fiducia, c'è tutto. Sì, sta portando il suo sentimentale. No, basta la fiducia, c'è tutto. C'è nel senso, non ho che. No. Fa caldo, sì, ragazzi, però. Ok, stesso discorso. Vabbè, ho finito. Quando c'è la fiducia, c'è tutto. Allora, a proposito di fiducia, vuoi dire anche qualcosa, Mauro, a questo punto? Puoi mandargli allora un messaggio? Mi raccomando, fai il bravo. Siete sicuro? Sicuro? No. E ci vediamo lunedì, ti amo tanto, non vedo l'ora che arrivi il 22. No, come ci vediamo lunedì? Ci hai detto sì, che vi vedete domani? No, ritorno domenica sera. Ah, ok. Io domani, saprai domani via messaggio, domani, via telefono. No, io domani non finirò qui, andrò avanti. Andrai avanti? Da sola? Tipo no, loro vanno a letto? Io, ah, ok, no. Qui ci sarà delle Pink Lady, ma ci saranno. Ah, qualcuna ci sarà. Sì. Bene, bene, va avanti. Ci sarà. Bene, bene, dai. Quindi lui torna domenica sera, io non lo so. Ma va bene così. Beh, è importante che torni per sabato prossimo. No, poi. No, l'importante è che torno per lunedì mattina perché vado a lavorare. Ah, beh, giusto, giusto. Un po'. Quindi va bene così. Bene, allora bene. Abbiamo detto tutto, direi. E viva la sposa! Anzi, a questo proposito, qualcuna di voi vuol dire qualcosa, Gloria? Vago. Senza romperti i denti, magari? Hola! Una ragazza spumeggiante. Sì, è vero. Lei conosce molto bene lo sposo. Quella ragazza lì dietro. La parrocchiera? Esatto, la mia parrocchiera. Conosce amica. Bene lo sposo. Conosce molto meglio di me lo sposo. Addirittura? Perché, sì, perché sono amiche da tanti anni. Ah, sì? Sì. Quindi. Da 20 anni. Però. E ora non puoi non dirci che se è o meno la persona giusta per lei. Ma tu esatto. Tutte e due. Lei è qui e là, esatto. Lei è duplice. Ah, giusto, non puoi inserirti in quella festa. No, dicevo, quindi se la persona giusta per confermarci che siano fatti l'uno per l'altra. Sì? Bene. Bene. Bene, siamo contenti. Allora, ci sia anche il parere della parrocchiera che condivide. Amica, beh, parrocchiera perché è la mia. Ma è anche lei fa la parrocchiera. Certo, era anche per dare un po' di prestigio e fare un po' di pubblicità anche sul lavoro, no? Certo. Vuoi dirci dove parrucchi? Vai, Ruth. Parrucco a Cremone in via Platina. Vedi? E si chiama? Studio Arte in Testa. Top, top, top, top, top. Ragazze, top. E volevo, adesso che ci siamo, andate a fare un aperitivo, bere qualcosa anche al bar Paolo di Crumello Cremonese in via Roma numero 1, perfetto. Dato che ci siamo, Beh, è giusto che tu che prendi, ce ne frega, dai spazio a tutte. Ma dai, sì, certo. Gloria, stanno aspettando fuori Gloria alla taverna di Sumia. Ah, io lavoro in un grandissimo ristorante con l'altra. Vabbè, giusto, abbiamo dimenticato quello. Che si chiama La Taverna del Gusto, pizzeria, ristorante. E guarda, va benone, si mangia da Dio. Non perché ci lavoro, ma sono veramente contenta. Bene, questo è importante. Sono veramente contenta. Bene, siamo contenti anche noi di avervi avute qui e vi auguriamo una buona fine serata, una buona festa. Ciao Becco! Ah, l'autista, giusto? L'autista! Non capivo. Che ci sta sopportando. Salutiamo l'autista. Ciao Mauro, anche dove sarà, non si sa dove sarà. Dovunque sia. E dovunque no, sia, dicevo, torna entro sabato. Siamo anche certi che questa ragazza sicuramente continuerà a divertirsi, lo farà domani. Ovviamente. E lo farà nei prossimi giorni della sua vita. Anche adesso, ragazzi. Continua. Sì, grazie, sì, Gloria. Grazie alle Pink Ladies. Ciao. Ciao.